l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento del sabato, dove andiamo a respirare cultura europea, un programma in collaborazione con Euronet, il network di radio europee che cerca appunto di dare voce all'Europa, all'attualità, alla politica, l'economia, che viene seguita quotidianamente da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altre sfumature, cerchiamo di approfondire anche altri aspetti magari più nascosti, magari appunto cronaca di cui si parla meno, ma cerchiamo di dar voce a tutta l'Europa. 349 238 6666 per i vostri sms. Ci trovate anche su Facebook, nelle pagine facebook.com/l'altra Europa, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che tocchiamo, pure su Twitter @ Federico Taddia. Un viaggio, un lungo viaggio. Oggi si parte dalla Romania. E si parte dalla Romania prendendo spunto da un importante convegno che si è tenuto qualche giorno fa qui a Milano, voluto dalla rappresentanza della Commissione Europea, un convegno incentrato su una ricerca internazionale sullo stato dei bimbi romeni che migrano verso l'Italia e la Spagna, i problemi di integrazione a cui vanno incontro. Tanti aspetti in questo convegno, e ce n'è uno invece che ci ha colpito in maniera particolare, ed è quello degli orfani bianchi, cosiddetti orfani bianchi. Cosa succede a quei bambini che perdono i genitori, perdono tra virgolette perché magari mamma e papà migrano verso l'Italia o verso l'Europa alla ricerca di un lavoro? C'è una ricercatrice italiana che studia questo fenomeno in un progetto in collaborazione con l'Osservatorio Balcani e Caucaso, finanziato dalla Fondazione Caritro. Ha studiato la zona, alcune zone della Romania, in particolare la Moldavia romena, quindi ai confini, e in questo momento si trova nella regione di Maramures. Diamo il benvenuto a Cristina Bezzi. Ciao Cristina. Ciao, buongiorno a tutti. E un lavoro particolare, un lavoro nascosto, no? Come tante volte succede a voi che vi occupate di cose piccole ma di fondamentale importanza. E ci puoi illustrare veramente quelle che sono le coordinate di questa tua particolare ricerca? Di cosa ti occupi? Cosa stai cercando? Sì, allora la ricerca di cui mi occupo in realtà è una ricerca transnazionale tra la Romania e l'Italia, quindi in Italia mi sto occupando di analizzare, di incontrare una categoria particolare, che è quella degli assistenti familiari, cosiddetti anche badanti, e analizzare quali sono le problematiche, che cosa affrontano una volta giunte in Italia, ma soprattutto appunto mi interessa capire qual è il contesto che si lasciano alle spalle, quindi che cosa lasciano queste donne in Romania nel momento in cui partono. Ed è proprio questo appunto che sono andata a ricercare nella Moldavia romena, capire quali sono i contesti di partenza di queste donne. Spesso e volentieri si parla, si pensa a queste donne praticamente identificandole con il ruolo che svolgono in Italia, e non si pensa che loro hanno anche invece una propria famiglia, una propria vita nei paesi da cui sono partite e a cui raramente fanno ritorno. Ecco, quello a cui accennavi prima tu, il fenomeno degli orfani bianchi, è un fenomeno molto importante. Diciamo, in Romania in questo momento ci sono 350.000 minori, secondo le cifre UNICEF, che vivono in assenza di uno o di entrambi i genitori, e chiaramente le conseguenze per questi minori sono molto gravi, vanno a toccare un po' tutti gli ambiti della vita del minore. Scusa, perché poi quando si parla di cifre, no, tutto passa così, dandolo quasi per scontato, ma 350.000 è un numero esagerato, cioè, vuol dire comunque una rivoluzione culturale, vuol dire un impatto decisivo per questa generazione sicuramente. Sicuramente, se si pensa che circa 3 milioni di persone sono emigrate dalla Romania, se pensiamo che in Italia, secondo le cifre Istat, ci sono in questo momento stabilmente residenti in Italia 968.000 romeni. Spesso queste persone ricongiungono a 6 figli solo in un secondo momento. Poi i genitori preferiscono che i minori finiscano la scuola, per esempio in Romania. E quindi per anni e anni questi minori rimangono fino almeno all'età della scuola inferiore soli a casa, accuditi o spesso e volentieri, almeno per quanto riguarda la Moldavia, dai nonni, a volte dagli zii, a volte addirittura da un vicino di casa, nei casi più gravi addirittura da un fratellino maggiore o anche da nessuno. E quindi chiaramente quelle conseguenze su questi minori sono molto pesanti. Dal punto di vista emotivo psicologico si parla di orfani bianchi, nel senso che non sono veri e propri orfani, perché hanno i genitori, ma sostanzialmente vivono distanti da loro, e infatti soffrono di quelle stesse caratteristiche che soffrono i bambini che vivono proprio negli orfanotrofi, quindi certo, stati di ansia, depressione, aggressività, iperattivismo. Addirittura nei casi più gravi si è arrivati, alcuni di questi minori sono arrivati al suicidio. Non si può dire che ci sia un collegamento diretto tra l'assenza del genitore e il suicidio, perché i casi sono stati alcuni, ma proprio mentre mi trovavo in Romania è accaduto che una bambina di 10 anni sia morta di anoressia nervosa a causa della nostalgia della madre che lavorava in Spagna e ha smesso di mangiare. Cristina, scusa, darei subito intanto le indicazioni sulle nostre pagine in Facebook, abbiamo pubblicato il link per leggere anche un tuo articolo molto bello pubblicato su balcanicaucaso.org intitolato Romania, i figli della migrazione. Tu adesso sei appena arrivata in questa regione, Maramures, sei lì credo da pochi giorni, hai già colto qualche aspetto significativo? Sì, effettivamente sono proprio arrivata ieri, quindi è un po' difficile parlare ora del Maramures, sebbene posso dire che rispetto alla povertà che ho trovato nella Moldavia trovo una situazione differente. In Moldavia ho trovato più disgregazione familiare, qui la situazione mi sembra differente, però non posso appunto ancora raccontare molto perché sono arrivata ieri, quindi ho semplicemente fatto i primi incontri. Relativamente alla Moldavia invece diciamo che è anche una delle zone più povere del paese, basata su un'economia basata principalmente su un'agricoltura di sussistenza, che nel 2008 inoltre è stata ulteriormente messa in ginocchio dalle alluvioni, quindi molte famiglie sono state costrette a considerare la migrazione per far fronte ai bisogni familiari. Diciamo che tante volte l'unica alternativa è la migrazione. Se pensiamo che un salario medio in Romania sono circa 250 euro, ma il costo della vita assolutamente non è proporzionato a questo stipendio, molti decidono di migrare. Certo, insomma, è significativo. Come unica soluzione. Cristina, grazie davvero intanto per averci dato un assaggio del tuo lavoro complesso, ma è complicato, ma fondamentale. Ti seguiremo, ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa in una delle prossime puntate, così magari ci racconti come continua la tua ricerca. Ciao e comunque, buone feste lì in Romania. Ciao Cristina. Ciao, grazie, ciao. Buona notizia che ha catturato la nostra attenzione: la Commissione Europea, questo era il titolo di un comunicato stampa, e pone i gemellaggi, la memoria della storia europea e il dibattito della società civile sull'Europa al centro del nuovo programma Europa per i cittadini. È stato varato pochi giorni fa, sono stati stanziati per il periodo 2014-2020 229 milioni di euro, quindi una cifra considerevole, appunto per sviluppare nuovi progetti in grado di fatto di far comunicare i cittadini, di farli partecipare a questa Europa, far respirare quello che è il sapore di un'Europa unita. Un'attività importante, un'attività di cui forse anche nel periodo di crisi si fa fatica a capirne il perché, il vero significato. A noi invece piace dar voce a progetti di questo tipo e per capire bene nei dettagli il progetto, sia nei suoi obiettivi sia nei suoi contenuti, abbiamo invitato Joachim Ott, che è vice capo dell'unità politica per i cittadini e fa parte della direzione generale della comunicazione. Buongiorno Joachim. Buongiorno. Buongiorno. Da dove ci chiama? Dove si trova lei? A Bruxelles? Io sono adesso a Bruxelles. Perfetto. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Credo sia una bella notizia, no? Si parla di tanti soldi, perché mi sembra che sia una cifra importante per sviluppare così un approccio nuovo, un approccio più intenso alla vita europea. È questo il vero significato del progetto? Infatti, siamo molto contenti. Chiaramente è una somma importante. Per 500 milioni di cittadini sono, io ho calcolato, 6 centesimi ogni anno, però è importante perché abbiamo uno dei pochi programmi che sono veramente programmi per i cittadini, così non per gruppi più specifici, per tutti i cittadini. Al momento nel programma attuale abbiamo già 1 milione di partecipanti ogni anno e speriamo di diventare meglio nel futuro, chiaramente. Ecco, perché questo programma? Nel senso, quali sono gli obiettivi specifici che vi siete dati? Qual è il desiderio? Perché al di là dei soldi, al di là dei progetti sulla carta, qual è il contenuto reale che vi aspettate di ottenere, di sviluppare? Poi, in molto generale, il programma è qua per aiutare i cittadini a comprendere prima di tutto che cos'è l'Unione Europea, come funziona, ma anche, questo è il più importante, come posso io come cittadino avere un impatto su quello che l'Unione Europea fa. Lo facciamo su 2 piste, una è la partecipazione, così sosteniamo che i cittadini possono incontrarsi, possono discutere, possono trovare soluzioni comuni per i problemi, anche per trovare possibilità per contribuire alle società. Per volontariato, per esempio, nel 2011 sì. Abbiamo avuto l'anno europeo del volontariato, che è un'espressione molto importante della cittadinanza. L'altra pista è la memoria, vuol dire possiamo capire e creare il nostro futuro soltanto nel momento che abbiamo una comprensione che cosa è nel fondo scuro, oscurissimo dell'Europa dell'ultimo secolo. Per capire come sono i valori, perché abbiamo questi valori e anche per sviluppare una identità europea comune. Certo, Joachim, una parola chiave mi sembra che sia gemellaggio, che vuol dire incontro, vuol dire confronto, vuol dire contaminazione di cultura. Si sente parlare spesso di gemellaggi tra città, tra zone, tra province. Secondo voi è una strada da percorrere? Avete anche dei feedback positivi da queste esperienze? Sì, sicuramente. Abbiamo un feedback molto positivo dalle città che partecipano nel nostro programma. È efficace perché lo sviluppo di tutto come una visione insieme per l'Europa del futuro, anche la solidarietà tra i popoli, per questo si ha bisogno di conoscersi, di incontrarsi, di cooperare, e per questo il gemellaggio, la cooperazione delle città è importantissimo anche nel futuro. Joachim, un po' di dietro le quinte, ma appunto si parla di crisi in Europa, no? Quindi le altre commissioni sono un po' invidiose di stanziamenti di questo tipo, ne capiscono il valore, si riesce a comunicare il valore di iniziative culturali? Poi sicuramente per noi è importante questo, perché come ho detto l'Europa è basato su una serie di valori che chiaramente vengono dalla storia, certo. Che vengono anche dal fatto che noi europei abbiamo molto di più in comune che si pensa, e sicuramente molto di più che solo l'euro nelle nostre tasche, e anche una esperienza che abbiamo fatto insieme, una identità che si vede il momento che si va al di là, fuori dell'Europa. Certo, insomma, quest'unione va vissuta, non va solo raccontata, vero, o comunicata. Infatti. Grazie davvero Joachim, complimenti a te e a tutto il tuo staff, e questo è solo un punto di partenza, quindi insomma vi aspettano diversi anni di intenso lavoro, ma ci piace che ci siano persone anche che appunto abbiano queste competenze e queste capacità e soprattutto questi obiettivi. E buone feste, grazie davvero. Ti ringrazio, arrivederci, e grazie per l'Italia, perché l'Italia è uno dei paesi i più attivi nel nostro programma. Questo ci fa piacere ogni tanto, essere ricordati anche come quelli tra i più attivi. Ciao, buon sabato. Buon sabato. Europost-it. La Russia è sempre più vicina, da oggi è anche a portata di treno. Un vecchio detto diceva: non è importante la meta, ma il cammino. Questo proverbio vale ancora di più quando il viaggio dura niente meno che 40 ore. Le ferrovie russe hanno appena inaugurato due nuove tratte ferroviarie che collegano Mosca a Parigi e Berlino. Una validissima alternativa per tutti coloro che vorrebbero visitare la capitale russa, ma hanno paura di volare. I prezzi vanno dai 330 euro della seconda classe ai circa 1000 euro a persona se ci si vuole concedere 80 ore complessive, serviti e riveriti in business class. Era dal 1994 che Mosca non era collegata via treno alle capitali dell'Europa occidentale. Il primo convoglio è arrivato a Berlino questa settimana tra le note di una banda festante. Procuratevi un libro per il viaggio e guardate orari e prezzi sul sito rzd.ru. Beh, insomma, può sembrare una banalità, ma non c'è modo migliore che viaggiare se si vuole davvero respirare l'Unione Europea, se si vuole andare alla scoperta di queste identità comuni. Appunto, ne abbiamo parlato poco fa, sulla carta, questi stanziamenti che sono stati appunto decisi dalla Commissione Europea, però andiamo a vedere anche concretamente cosa vuol dire, per esempio, viaggiare in Europa, perché forse non si può parlare di una nuova moda, ma sicuramente si può parlare di un nuovo approccio al viaggio in Europa. E come ci spiega Claudio Visentin, fondatore della Scuola del Viaggio e direttore della Fondazione Bergamo nella Storia, uno che studia il viaggio da sempre e so che ha proprio delle novità riguardo degli itinerari europei. Ciao Claudio. Eccomi qua. Ciao. Quindi viaggiare in Europa non è più solo fare l'Interrail o fare un weekend a Berlino, a Parigi o a Barcellona, cioè è arrivato il momento di fare uno step successivo? Certamente, diciamo, il viaggio europeo in realtà fin qua non è quasi mai esistito. L'Europa è la prima destinazione turistica mondiale, un turista su due viaggia in Europa, ci dicono i dati, però poi non esiste un viaggio europeo in quanto tale. Noi ad esempio diciamo vado in Australia, cioè vado a visitare un altro continente, ma quando un orientale dice vado in Europa, che cosa viene a vedere in Europa? Spesso viene a vedere la somma dei singoli paesi, cioè non siamo sempre capaci di proporgli l'Europa nel suo insieme. E lo stesso vale anche per i cittadini europei, quando vanno dall'uno all'altro paese, curiosamente spesso vanno a visitare dei luoghi che sono luoghi simbolo di odi, di guerra, di divisioni. Pensiamo alle nostre celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, in molti casi sono state piene di ricordi anti-austriaci. Allora si è detto, come creare, la Commissione Europea ha detto, come creare un viaggio europeo che sia fattore di unione, di cittadinanza, di identità, e ha scoperto in realtà che esistevano già. Che esistevano già dal 1987, cioè da quando il Consiglio d'Europa aveva cominciato a collezionare questi itinerari europei. E c'è anche appunto un centro, un istituto, si chiama Istituto Europeo Itinerari Culturali, e con noi c'è Eleonora Berti che in questo istituto ci lavora. Eleonora, scusami, non so con quale ruolo, buongiorno Eleonora. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, io lavoro all'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, che è basato a Lussemburgo, e sono responsabile dei dossier di questi itinerari culturali europei, sia degli itinerari che hanno già ricevuto la certificazione da parte del Consiglio d'Europa, sì, sono ad oggi 29, sia di tutti quei dossier che vengono invece istruiti per ricevere la certificazione, che quindi devono rispondere a determinati criteri ovviamente per ricevere questa prestigiosa certificazione da parte del Consiglio. E Eleonora, ci stavi dicendo che appunto voi certificate di fatto questi viaggi, questi itinerari che si possono definire itinerari culturali. Quali sono le caratteristiche base che devono avere? Bisogna innanzitutto considerare la natura di questo programma degli itinerari culturali che il Consiglio d'Europa ha lanciato nel 1987, quindi quando ancora l'Europa era divisa in due blocchi, l'Europa dell'Ovest e dell'Est, prima ancora evidentemente della caduta del muro di Berlino, che ha segnato invece la riunificazione e la ricreazione di un'Europa unita, quella in cui viviamo oggi. Dunque, il programma si fonda sui valori del Consiglio d'Europa, è un programma culturale prima che programma turistico. Il turismo, diciamo che è una conseguenza, nel senso che quando si viaggia evidentemente si fa turismo. Dunque l'idea di base era quella di rendere visibile ai cittadini dell'Europa il loro patrimonio culturale comune, sì, in un'Europa che ancora oggi viene spesso considerata uno strumento tecnocratico, un mercato comune, il mercato dell'euro. Noi lavoriamo invece innanzitutto con i 47 paesi del Consiglio d'Europa, quindi sì, non soltanto i 27 dell'Unione Europea, ma i 47 che hanno firmato la Convenzione dei diritti umani, la Carta dei diritti umani. E dunque quali sono le caratteristiche di un itinerario culturale? Ogni itinerario deve essere un asse di narrazione dell'Europa, che deve permettere la lettura dei beni culturali che sono in Europa attraverso un filo conduttore, diciamo, che conduce il viaggio e che spiega al viaggiatore, aiuta il viaggiatore a comprendere meglio l'Europa di oggi attraverso tutta la stratificazione di cultura dei secoli passati. Certo. Ecco quindi che gli itinerari culturali sono gli itinerari lungo i quali si sono sviluppate relazioni artistiche, culturali, commerciali, ma anche politiche tra i paesi europei nel corso della storia, e che quindi sono considerati dal Consiglio d'Europa come degli strumenti privilegiati di cooperazione culturale, prima di tutto, di scambio di idee, di scambio di saperi, di esperienze, che possono permettere oggi di superare delle barriere culturali e politiche che hanno segnato l'Europa nel secolo scorso. Immagino che siano itinerari anche flessibili nella durata e nei giorni, credo. Adesso non sono entrato nel dettaglio, ma per esempio ci potresti dare qualche indicazione concreta sfruttando per esempio le vacanze di Natale? Senz'altro, sì, senz'altro. Beh, innanzitutto il più famoso è il Cammino di Santiago di Compostela, certo, che è anche stato il primo itinerario culturale che ha ricevuto la certificazione da parte del Consiglio d'Europa e che è emblematico, che credo sia il più conosciuto anche al pubblico. Ce ne sono però appunto 29, molti di questi coinvolgono la penisola italiana, fra tutti uno dei più conosciuti è la Via Francigena, che segue l'itinerario di Sigeric, arcivescovo di Canterbury, che nel 990 tornò da Roma verso la sua patria, verso l'Inghilterra, e quindi la Via Francigena, riconosciuta dal Consiglio d'Europa, ripercorre questo viaggio, queste 80 mansiones che sono state ritrovate e studiate dagli storici nel diario di viaggio di Sigeric, dell'arcivescovo, sì, e quindi permette in effetti di ripercorrere l'Italia da Roma verso le Alpi, poi attraverso la Svizzera, attraverso la Francia, fino al Regno Unito, attraverso delle tappe che effettivamente sono flessibili, per cui si può decidere per esempio di percorrere una parte di Via Francigena. Sul sito internet dell'associazione che gestisce l'itinerario trovate delle carte, delle mappe proprio per programmare il viaggio, certo, ad esempio. Così uno se lo può anche organizzare. Claudio Visentin, tu oltre a essere un teorico del viaggio sei anche un viaggiatore, hai calpestato qualcuno di questi itinerari, cioè hai fatto un'esperienza di itinerario europeo? Beh, va detto, diciamo che non tutti questi itinerari in realtà poi si possono percorrere davvero. Alcuni, come tutte le cose che hanno a che fare con l'Europa, sono stravaganti e complicati, diciamo. Se uno tentasse di fare la rotta dei Fenici scoprirebbe il piacere dei visti sul passaporto, per esempio, dato che si snoda in tutto il Mediterraneo. Alcuni però sono singolari. Io ho fatto forse quello più strano di tutti, cioè la rotta del Don Chisciotte nel cuore della Spagna, che intanto è l'unico itinerario che un po' non va da nessuna parte, perché in realtà riguarda un solo paese, quindi è poco europeo in questo senso, e si snoda proprio nel cuore di questa Mancia Castiglia spagnola, però in realtà l'ho sentito molto europeo, perché appunto questo personaggio, questo Don Chisciotte col suo Sancho Panza, intanto è il padre protettore dei viaggiatori da molti punti di vista, e poi diciamo ha uno spirito che probabilmente all'Europa di oggi non guasterebbe, ecco, un po' di Don Chisciottismo e un po' meno di tecnocrazia non ci farebbe male. Un bellissimo viaggio peraltro che mi sento di consigliare a tutti. Eleonora, hai citato un sito prima dove poter trovare, sfogliare questi 29 itinerari, se lo vuoi ricordare? Roba degli itinerari culturali, sì, che è www.culture-route.lu. Perfetto. E trovate tutto quello che l'istituto fa, quindi le attività e l'atlante degli itinerari culturali, con i riferimenti ai siti delle associazioni che gestiscono i 29 itinerari del Consiglio d'Europa. Ottimo, l'abbiamo già pubblicato il link sulle nostre pagine in Facebook. Un grazie a Eleonora Berti, a Claudio Visentin, e per voi credo che l'augurio migliore sia buon viaggio a questo punto. Buon viaggio a grazie tutti. Grazie anche a tutti gli ascoltatori, buon viaggio e buone feste. Europost-it. La Renault 4 compie 50 anni. In Francia le dedicano una mostra. La Renault 4 è una macchina indimenticabile, stondata, piccola, economica. La versione francese del Maggiolone e della 500, che aveva come rivale solo la Citroën 2 cavalli, è la terza vettura francese più venduta della storia. Ne sono state infatti prodotte circa 8 milioni. La 4 cilindri, lanciata al Salone Universale del 1961 come utilitaria semplice, giovane e da vacanza, compie quest'anno mezzo secolo, ma se lo porta benissimo. L'ultimo esemplare è stato fabbricato in Slovenia nel 1994 e da quel momento chi è stato sufficientemente saggio da non mandarla allo sfascia carrozze ha per le mani un tesoro di inestimabile valore. A Mulhouse, alla Cité de l'Automobile, le hanno dedicato una mostra che riunisce una quindicina di modelli, tra cui la celebre parigina nera o quella blu della Gendarmerie. L'esposizione sarà visitabile fino al 16 gennaio 2012. Per ulteriori informazioni visitate il sito citedellautomobile.com. Jakich przyszło nam żyć, okazały się bardziej skomplikowane, bardziej nieprzewidywalne niż ktokolwiek mógł pomyśleć kilka lat temu. To, że Polska przez te 4 lata przetrwała w dobrej kondycji kryzys, który w Europie i w świecie quello che state ascoltando è il discorso di insediamento del premier Donald Tusk, di cui parlava di crisi europea in Polonia. Stiamo andando in Polonia perché in queste settimane abbiamo parlato tantissime volte di crisi, perché il tema è l'attualità europea. In Polonia sta succedendo qualcosa di particolare. La domanda è davvero la Polonia il nuovo Eldorado d'Europa? Perché c'è una controtendenza: in Polonia si sta meglio, in Polonia gli stipendi, benché siano ancora bassi, però stanno crescendo. In Polonia la gente è felice, cioè l'80% dei polacchi è contenta della propria situazione, così dicono alcuni sondaggi. Per capire se veramente è così, per avere una fotografia della situazione, abbiamo invitato un amico dell'altra Europa. Nel collegamento con noi c'è Marek Lennert della radio pubblica polacca. Ciao Marek, bentornato. Buongiorno. Ciao, come stai? Buongiorno. Allora, se ti fanno così questa domanda secca, è davvero la Polonia la nuova Eldorado d'Europa? Tu cosa rispondi distinta? A giudicare dal tono di voce e da quello che ha detto Donald Tusk, il nostro primo ministro, all'inizio del suo secondo mandato, forse non più, perché lui diceva quello che abbiamo ascoltato, che passati 4 anni ci è andata bene, ma alla fine forse questa crisi prenderà anche la direzione di Varsavia, e di questo parlano anche i numeri della legge finanziaria per l'anno prossimo presentata dal nuovo governo. Quest'anno la Polonia avrà ancora un tasso di sviluppo molto, scusate ma qui fa un po' freddo, molto invidiabile. Il PIL crescerà 4,2%, ma per l'anno prossimo, essendo Tusk e i suoi ministri gente coi piedi per terra, l'anno prossimo scenderà a 2,5, che pur sempre è qualche cosa rispetto a quello che succede intorno. Certo, e c'è questo dato che però è significativo, no? Perché quando si parla di numeri ci si dimentica a volte di avere il polso reale della situazione, il polso reale non economico, ma di quello che è un po' il consenso, di quello che è il sentimento, diciamo, della popolazione. L'80% dei polacchi è felice, è un sondaggio nel segno dell'ottimismo o è vero? No, è vero, poi i polacchi ancora si ricordano come si stava prima, sono passati 20 anni, però la gente se lo ricorda benissimo, quindi contano, a parte i fattori economici, contano anche altri, conta proprio la libertà, conta il fatto di potersi spostare, di poter andare all'estero, di poter mettere in piedi una propria attività economica, è questo che distingue oggi la Polonia, forse anche dall'Italia, qui ancora si vedono, anzi aumenta il numero di, diciamo, negozi spenti, di vetrine spente, di neon, di insegne tolte, invece in Polonia qualsiasi buco ci sia lungo le strade principali, ma anche quelle secondarie, c'è un'attività. Io penso, adesso se posso esprimere il mio proprio parere, certo. Si dice che siamo molto simili, polacchi e italiani, come temperamento, come stile di vita, come atteggiamento, come l'adattamento alla realtà. Io temo che abbiamo anche noi in Polonia un sommerso, e anche forte, perché d'altra parte dobbiamo aggiungere questo dato: la disoccupazione, nonostante questo boom, questa felicità dei polacchi anche dal punto di vista economico, la disoccupazione non scende mica, è sempre a due cifre, per l'anno prossimo si parla di non più 12,8 come adesso, spero di 12,5, ma è sempre molto, quindi credo, visto che non ci sono le rivoluzioni né qui né nel nostro paese, nel mio paese, ci sarà anche quella che da noi si chiama zona grigia, sì, di economia nascosta. Sì, forse siamo davvero troppo simili. Marek, grazie davvero per averci dato una fotografia sintetica. Poi volevo aggiungere un'altra cosa, se mi permetti. Certo. Questo sondaggio è proprio fatto ieri. Sì? Si parla dell'euro. Avete visto che a Bruxelles anche la Polonia, che non fa parte dell'Eurolandia, della zona euro, ha sostenuto tutte le misure miranti al salvataggio dell'euro. Certo. 2/3 però dei miei connazionali, sondaggio di ieri proprio del OBOP, un istituto molto serio, 62% ritiene che l'introduzione dell'euro sarebbe molto sfavorevole per il nostro paese. Ok, quindi questo è un sentimento, insomma, molto attuale come sondaggio, appunto recentissimo, e anche questo dà la direzione di quello che è il pensiero dei cittadini polacchi. Grazie davvero Marek, buone feste, ci ritroveremo feste sicuramente qui all'Altra, sì, Europa. Ciao, buon sabato. Ти защо стоиш, пушиш и мълчиш, твоето море май ти отне младостта. Още си тук, само че друг е света. Buongiorno Radi, ci vuoi raccontare tu di cosa parla questa canzone? Buongiorno, parla di un anziano marinaio che ama tantissimo il mare e ha tanta nostalgia per il mare, non riesce a ripartire, e questa canzone lo incita di ripartire nonostante l'età, nonostante che il mare gli ha rovinato la vita, che l'ha fatto diventare anziano, gli dice: parti lo stesso, intanto questa è la tua vita, il mare è la tua vita. Il mare è la tua vita, questa canzone, sì, anche la colonna, sì, sonora che hai scelto per raccontare la tua storia, che abbiamo trovato sul sito Tipitosti, ho già pubblicato l'articolo sulle nostre pagine in Facebook. Radi, il capitano e la sua ciurma, la storia di questa ragazza. Tu, insomma, hai fatto studi di archeologia, pedagogia, biologia e turismo, sei giornalista, parli 5 lingue, sei nata in Bulgaria, ma soprattutto hai creato, hai ideato la prima cooperativa di pescatrici, tutte donne in Italia, Massa Carrara, una storia poetica, romantica, una storia che ti vede protagonista. Sì, è una bella storia, noi siamo tante, siamo sette ragazze, siamo tutte molto diverse, però ci unisce la passione per il mare, proveniamo di diversi paesi, abbiamo l'età diverse perché la più giovane è 20 anni, la più anziana 47, però ci sentiamo tutte ragazze, ci sentiamo lupe di mare tutte quante. Ma quando dici che sei pescatrice vuol dire che hai proprio una barca, vuol dire che esci di notte a pescare? Sì, usciamo di notte a pescare, per ora solo in due siamo imbarcate, però le altre ragazze sono vicinissime al settore, puliscono le reti, smagliano, fanno, riparano le reti, vendiamo il pesce, lo lavoriamo, insomma tutto quello che è legato al mare e al pesce lo facciamo. Radi, so che hai una barca di 6 metri che ti hanno regalato i pescatori, è vero? Regalato è parola grossa, parola grossa però la usiamo, diciamo così. è la nostro gabbiano, sì. Ma come hai imparato il mestiere? Perché hai scelto la pesca? Perché vabbè, la passione per il mare l'ho avuto sempre da piccola, è una cosa con sale nel sangue si nasce, una cosa forte. La mia nonna, che ha le origini proprio vicino, è nata vicino a Mar Nero e quindi avevo occasione di andarci molto spesso, e quindi questa passione è nata da quando sono nata io. L'acqua di mare mi piace. Mm-hmm. Beh, un lavoro durissimo, immagino, perché ogni mattina sveglia l'alba o forse di notte, quando uscite con la barca? Noi siamo molto condizionati dal mare, certo. È il nostro padrone il mare, perché dipende come è messo, a volte si esce alle 4, a volte si esce alle 6, a volte addirittura si calma un po' e si esce più tardi. Tutto dipende dal mare, non abbiamo un orario preciso. È il bello anche di questa professione. Allora, ricordiamo: Cooperativa Bio e Mare, l'unica cooperativa italiana formata da pescatrici e donne, fondata da Radi Petrova. Radi, credo che insomma per te l'Italia ti ha permesso di realizzare un sogno, no? Si parla sempre di gente che va via dall'Italia, per te è stato un viaggio al contrario e ci piace che questo viaggio abbia trovato nel mare il suo porto. Grazie davvero, complimenti a te e complimenti a tutta la tua ciurma. Grazie mille a voi, ciao. Buona giornata a tutti. Buon lavoro e buona pesca. Un abbraccio a tutti, ciao. E un grazie anche a tutta la mia ciurma, Margherita Inea e Viola Frifa, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza e Peter Bescapè alla parte tecnica. Di là dal vetro c'è già Davide Paolini, il gastronauta, che sarà qua in onda subito dopo il GR. Noi ci ritrovate in Facebook alle pagine dell'Altra Europa, oppure da lunedì la puntata in podcast dal sito radio24.it. Ci ritroviamo qua sabato ancora. Ciao da Federico Taddia.